Ciao Nicola, buonasera. Ciao, che studio, interrogativo? No, negativo. Gianfranco, ciao. Ti ho riconosciuto dalla voce. Ma non sei a casa? No, negativo, Gianfranco. Sono al posto della noce, ai banchetti del posto della noce, con la stella esterna. Come mi ricevi, interrogativo? Sì, discretamente, diciamo. Non è male, dai. Quindi sei di judo che si scende al posto della noce, quindi adesso non me lo ricordo. Guarda, è detto da un tempo che si sta volando al lato vecchio e c'è molto di basso, ci sono delle scalinate che arrivano via un mezzo dove c'era il cinema. Ah sì sì, adesso ho capito, dove c'è che si va da una parte all'altra del posto della noce, dai. Sto andando a prendere il mio figlio al lavoro e mi porto la radio per capire un po' di dove si trova. Ah, ho capito. Quindi sei in movimento? No, ma adesso amico, sono fermo e tra poco passo, perché anche qui devo essere la carbonata per quelle ho capito. Ok, visto che caldo che si è messo, di colpo cioè, è alzata la temperatura, è una cosa micidiale. Sì, mi ha detto, guarda, se ti vengo sicuro sui portelli della macchina, metti in moto e prova a chiamare ogni tanto per vedere se è sicuro, va bene? Ok, va bene, Nico. Siamo qua. La Franco, partendo? Se sei tu, Nicola, ti sento molto basso ora. Sì, adesso. Ok. Il segnale sembrerebbe discreto, dai. Ti sento bene comunque. OK. Quando è iniziato il segnale era forte, poi è calato di colpo. La radio comunque è sempre comprensibile. OK. Sì, ti ascolto, il segnale è abbastanza buono, la radio come sempre va bene, tu come mi ricevi? Mi ricevo forte chiaro. Oh capo, ma è molto lunga? Sì, sì, ti ho ricevuto, ti ho chiesto se è un'antenna molto lunga. Sì, ora ti ho visto però un attimino spezzato, se puoi ripetere. Sì, OK, ti ho chiesto se l'antenna è molto lunga. No, sarà un 70 centimetri. Ok, ho capito, 70 centimetri. Perfetto. Va bene, chiamami quando sei ancora, diciamo, in zona più alta, non so. Sì, tanto io devo andare adesso, ripeto, a Carbonari, dove c'è l'ingresso carradio dell'Ene, non so se lo sai, sì, via Carlo Felice dovrebbe essere, a meno che non sia quella specie di centrale. No, poi ti dico, mo adesso non ricordo la via quale, ma appena arrivo te lo dico. Sì, sì, via Carlo Felice, un po' più su della GBC, poi c'è anche il coso lì dal tesoro. No, negativo, la Carraia in un altro momento di automezzi da una via parallela. Ho capito, allora forse la centrale che c'è su, dove ci sono i trasformatori. Ma guarda, appena arrivo ti dico la via carica. OK. Ma dimmi una cosa, ma stai guidando tu? Perché se ti vedono ti mettono una multa da capogiro. Da questo, il microfono esterno collegato alla cintura di sicurezza. Naturalmente parlo quando non c'è nessuno in giro. Hai trovato il trucco per fregarli. Complimenti, bravo. Io posso sempre dire che ho un microfono autoparlante, capito? Giusto, giusto, giusto. E poi diciamo tra colleghi almeno un pochettino di solidarietà c'è, cioè, no? Ma guarda, io ho dubbi se parlare con il mio amico. No, è equiparato a un telefono. E allora via Fontanini, la via è lì Focas ha ricevuto via Paolanini. sì, la conosco, ho capito dove sei. Arrivi molto forte da lì, ovviamente zona alta, sei in linea ottica. Buonasera a tutti. Ciao Marco, che è questo rumore di elichetta? Sono qua in compagnia di Nicola, che si trova in via Forlanini. Ehi, ciao Nicola, sì, ho sentito che sta facendo delle prove in base alla zona. E ogni tanto la ventola dell'alimentatore, che è il solito problema, no? Parte al razzo, poi gli parlo, si tranquillizza. Ok, Nicola, sicuramente hai sentito anche Marco che è entrato. Te la faccio vedere se sta avanti. Si sente bene, però è simpatica, come tu, non è il solito rumore di ventola prepotente. Ma così è troppo, vabbè, poi si calma. Ciao Nico, arrivi bene anche qua, vabbè, qua siamo più vicini, non fa testo, dai. Sì, qua segna 9 più 10, dovrebbe essere un 9, intorno al 9. Sto passeggiando un attimo, Eia, con calma. E beh Gianfra, ieri sei sparito di botto. Ah sì, confermo, scusa, ma mi hanno chiamato perché c'era la bandiera tutta rotta e quindi l'ho dovuta ammainare e rimettere una bandiera nuova. Che cosa che capita? Un vento se la mangia questa bandiera. Ecco, parte già. Marco? Sì Nicola, vieni avanti. No, ho avuto un attimo di buio, pensavo che avrei perso le comunicazioni. Ma... No, io non voglio fare botta risposta nemmeno, parlare sempre a tipo matracca, si dice matracca da noi, non so come si chiami un po' nel dialetto vostro, è quella cosa che fa rumore, ma il termine italiano quale sarà? Gianfra, mi sfugge, ha un nome italiano anche, la matracca. Beh, io conoscevo la marocca, cosiddetta, quella che gira intorno tipo troppo, la RAI. Mi chiedo se non sia un termine spagnolo, matracca. Praticamente sì, è un'impugnatura, no? È questa cosa che tu fai ruotare con la mano e fa quel rumore. Non so se è presente Nico. Sì, l'ho presente. Quella che una volta si usava anche tipo sirena, una cosa del genere. Esatto. Non so in quale film, fine 800, credo inizio 900, in un film ambientato presumo o in Spagna o in Messico, non mi ricordo. Come arrivavano a cavallo i, non so se possono chiamare gendarmi all'epoca, facevano girare questa cosa che simulava il suono di una sirena, esatto. Ma non è che per caso era un film con Spence e Terence? Tutto è possibile, io non ho un lontano ricordo di quella scena, però me la ricordo. E quindi la sirena l'hanno inventata così, manuale, così, una cosa da manuale. Se lo fai il film, porti l'altra guardia, dai. Bisognerebbe vedere. Però mi ricordo questo particolare, di questa sirena manuale che usavano i cavalieri, insomma, i rappresentanti della legge dell'epoca. Ma presumo Messico, allora, se c'era Bud Spencer e Terence Hill, sempre zona Messico, Bassa California. Certo, senti, cambiate un attimo argomento, scusate se cambiamo. Allora, è ufficiale il fatto che non si paga più i 12 euro annuali per la concessione? Che io sappia sì. Gianfra, sai niente di nuovo? Sì, però non c'è niente sul sito, diciamo, della cosa di Cagliari, dell'ufficio territoriale di Cagliari. Non ho capito il perché, non è affatto aggiornato. Mentre invece sono riuscito a trovarlo nell'ufficio territoriale per l'Emilia Romagna. Lì c'è, si informano gli utenti che in base alla, dal 2021 non si dovrà più pagare la tassa, diciamo così, e tra l'altro non si dovrà più dichiarare il possesso degli apparati, quindi praticamente di uso libero in parole povere. Copiato Nicola? Quindi vabbè, che comunque non vorrei che toccasse la presenza, dai. Ci può giurare, appena sanno che non si paga niente e che possono fare quello che le pare, ha voglia. Comunque io sai che faccio, io ho i numeri di telefono, dovrei avere da qualche parte i numeri di Cagliari che si occupano di queste cose. Ma che vada verso dicembre un colpo di telefono glielo faccio, cazzo. Se ti rispondono, perché ho controllato anch'io il sito e i numeri sono tutti afferenti a Roma, quindi non vorrei che ci fosse un ridimensionamento dell'ufficio territoriale di Cagliari. Ci sono tutti i numeri per i servizi, diciamo, civili, televisivi, eccetera, e a pagamento. Di quello che riguarda noi, ma nei civili radioamatori, sembra che i numeri siano tutti romani. Allora, guarda, io sono andato qua all'ufficio postale centrale, sono andato sopra dove c'è l'ufficio del distaccamento, che io qualcuno lo conosco anche per ragioni mie di lavoro, e ci hanno dato dei numeri di Cagliari, io ho telefonato e mi ha risposto, quindi ho fatto le domande che dovevo fare, sono stati gentilissimi. Sì, vabbè, io ho controllato qualche settimana fa, ma può darsi che sia dovuto al Covid, che hanno tutto ridimensionato un pochino. Comunque è da vedere, quindi prendila per quello che vale l'informazione. Riprendi Marco. Sì, infatti, vabbè, che tanto ormai comunque fino al 31 dicembre è pagata, bollettino pagato a gennaio, vabbè. I documenti ce li ho ancora in macchina, al limite mi posso portare il certificato di conformità dell'apparecchio, ma non credo che ne controllino nemmeno, cioè se non c'hai documentazione no, per l'uso oppure tasse se ne fregheranno del certificato di conformità. Va bene, ho un po' la voce rauca oggi. Come mai? Perché ho il vizio io di accaldarmi fuori, poi arrivo a casa e mi denudo, mi si raffredda un po' la pelle e mi prende subito alla gola e mi frega sempre in questo modo qua. Io comunque anche oggi mi ho portato dietro l'autorizzazione per i bollettini di pagamento, a parte che io sono convinto che soltanto chi è del mestiere sa queste cose, non penso che anche a me, non io, quando ero in servizio conoscevo queste cose perché ero, diciamo, ma non credo che altri colleghi sappiano precisamente come funziona. Sì, infatti, magari se non sono radioamatori che conoscono bene gli apparecchi, non va bene. Dai, riprendete voi, sarò un po' spento. Gianfranco, ti ricordi il tuo QTH dove si trova? Lo dimentico sempre. Tratto comunale, non so se sai dov'è. Dove c'è, mi sembra, il monumento alla brigata, giusto? No, negativo, quello lì è via Prati. Via Prati, questo è il tratto comunale, sulla 127 bis, la strada che ti porta la Fara oppure a Usini, capito? Ah, sì, naturalmente hai un'antenna esterna, giusto? Non è solo un'antenna esterna, ci sono una decina di antenne esterne, quindi c'è anche un traliccio. Un parco antenne, insomma, dai. Beato te, io a casa mia non ne posso mettere neanche una. Già la puoi mettere volendo, solo che devi attenerti all'uso, diciamo, nessuno si può opporre perché c'è tanto di legge, però Ti capisco, per non avere rogna. Allora, guarda, io mi ricordo che quando ho fatto il corso di tecnico per la mia meditazione, il professore ha detto che, perché è un professore, un radioamatore, disse, però ti parlo di 30 anni fa, che nelle antenne riceventi dei televisori non è obbligatorio mettere l'impianto di meditazione. Nelle antenne ricche trasmittenti, sembrerebbe che è obbligatorio mettere il canto di messa a terra, perché se arriva il fulmine e prende fuoco il palazzo, uno ne risponde, non so se è vero, capito? Oddio, bisogna vedere se il fulmine cade sulla tua antenna, è un po' difficile da stabilire perché quando scende fa un macello tale, però sì, se fai danni c'è quella possibilità anche. Però speriamo di no, ecco. Se tutti diciamo sono con le paure, guai, compreso le stazioni radioamatori che sono molto più grandi, succedeva un disastro. Infatti lo devo dire. Io vi chiedo un paio di minuti di Quedex perché devo chiamare fuori il numero verde perché c'ho la rete a terra praticamente, la rete internet. Ci sentiamo tra poco, riprendi Marco. Sì, ok, è successo anche a me. Dovevano rinnovare l'offerta a Homobile ieri. Per motivi tecnici, vabbè, stiamo parlando di telefonia mobile, per motivi tecnici non hanno potuto rinnovarla alla mezzanotte tra sabato e domenica, me l'hanno attivata alle 8 di sera, 8-9 di sera, una cosa del genere. Questo problema era per molti utenti, non era solo per me. Io per questo ho sempre due numeri telefonici di telefonia mobile con due gestori diversi. Gestori principali, non diciamo quelli che si appoggiano tipo Cell Mobile o Poste Mobile, ho proprio due gestori, un Wind e un Vodafone, ma è con due cellulari diversi, non con uno diciamo con due SIM, perché in uno dei due riesco sempre a parlare. Sì, stessa cosa io. Diciamo internet è solo sullo smartphone. L'altro cellulare è un cellularino a tasti di quelli di una volta, piccolo, in modo che telefonare puoi sempre telefonare, ma pensa che noi abbiamo ancora la linea fissa di casa, con la ADSL 8 mega mi pare che sia, ancora abbiamo la linea fissa, ancora non l'abbiamo tolta. Ma per questo ce l'ho anch'io, perché abbiamo tre computer a casa, io, mio figlio e mia moglie, quindi abbiamo la rete wireless, ma anche col cellulare vado con wireless. Io il contratto che ho della Vodafone, chiamate limitate ma un solo giga di, diciamo, per i dati, ma a me sta bene perché io mi collego da casa con wireless. Ci hanno proposto la fibra, discali fibra, che non so se comprenda anche il telefono di casa, diciamo, il telefono fisso. Però sta fibra non lo so. Ho letto che l'installazione la fanno al primo punto utile appena varcata la soglia dell'appartamento, cioè non te la portano nella stanza dove hai il computer, te la portano alla prima presa o insomma all'ingresso di casa, proprio come entri dentro casa ti mettono una scatoletta, poi sta a te chiamare un tecnico e far passare la fibra ottica nella stanza che vuoi tu. Così avevo sentito, salvo variazioni, a meno che non si debba pagando di più far fare tutto a Tiscali, a Tim, insomma, chi ti fornisce la fibra. Però avevo letto su internet molte che si erano lamentati che il tecnico non è tenuto a portarti nella camera che vuoi tu la fibra ottica, te la porta solo all'interno dell'appartamento. Ma forse anche logico una cosa del genere, perché noi pensiamo se devo mettere un telefono in casa. Un attimo, scusa, mi sto spiegando il cellulare, un attimo. Prego, prego. Sono rientrato purtroppo un buco nell'acqua. Mi hanno detto che stanno facendo dei lavori praticamente. Ma linea fissa o telefonia mobile? No, linea radio, tramite link. Ah, vabbè, dai. Eia, se si è sentato un attimo Nicola che ha risposto al telefono. Gianfra, se vuoi approfittare un secondo a fare quella prova in USB e mi dici che risultati ho ottenuto. Prova. Direttamente? Eia, proviamo, dai, veloce, faccio una cosa, non voglio assillarti. No, non ti preoccupare, USB. Vediamo se c'è Nicola, siamo di nuovo qua. Sì, allora io sto andando dietro mio figlio che deve portare la macchina per Daniele, da un meccanico, quindi sono in movimento, magari ci sentiamo quando arriviamo. Ok, ma tanto se vai di lì io ti sento senza problemi, perché per Daniele ce l'ho davanti. Bene, mo sto guidando e ho un po' di paura effettivamente se mi becca qualcuno. magari la concorrenza. Sarebbe il colmo. Sarei fatto vedere tu perché... No, qua la stradale è ferma solo la finanza, anche quando sono in servizio. No, così sentono tutti quando c'è qualcuno in macchina, è proprio indiscreto, non gliene do. Riprendi Marco. Eia, eccomi qua. Sì, va bene, sono soddisfatto, anche Emanuele mi copia bene, vediamo se c'è anche lui, Emanuele. Sì, dai, comunque arrivi bene, dai, arrivate bene tutti e due, vi stavo ascoltando da prima. Una bella modulazione anche in banda laterale, Marco, non so come mi ascoltavi tu. Beh, gira come la M, se non meglio. Sai, la M è sempre un po', soprattutto con certi apparati, un po' strana. E beh, bene, naturalmente Gianfra, io quando dicevo della resina, la colata di resina epossidica, stavo scherzando, Cioè, quello è un menu di servizio che si attiva tramite i tastini frontali, cioè niente trimmer all'interno, è un menu di servizio, tu premi il tasto funzione, accendi, premi tre tastini consecutivi, ti appare a display il menu di servizio, ti usi la manopola dei canali per fare i ritocchi, tutto lì. Gianfranco è cascato. No, stavo ricontrollando una cosa, se riesco a spuntarla, ma vabbè, se va male proprio se mi serve, comunque c'ho là. Anche la connessione d'emergenza, ne ho due per essere, in tutto sono tre. Se no basta usare, craccare qualche chiave di qualche wifi. Che programma si usava? Quello per sniffare i pacchetti e poi decrittarli, porca miseria. Air, avevo un nome del genere, vabbè, si scherza naturalmente. Gianfra, a proposito di Vox mani libere, chi è che l'ha nominato prima? Allora, il McKinley dietro ha una presa, credo mono, quelle tipo auricolare, micro, non è 3.5, è da... quelle piccole, ed è per il microfonino da Vox, cioè l'apparecchio al Vox. Tu volendo in macchina ti metti un microfonino al bavero, al condensatore, regoli sensibilità del Vox e come inizi a parlare inizi a trasmettere, interessante. Beh, ma ce l'hanno tutti gli apparati, cioè VHF ce l'hanno tutti, anche quelli HF, basta programmarlo e lo fa. Questo che lo stanno mettendo in molti apparati CB, forse perché hanno capito che è più pratico, diciamo, in modo da evitare eventuali sanzioni. E niente, è tutto da regolare, solo ripeto, se la macchina fa rumore, se sentono trattone, eccetera, sta sempre, fa un po' di falsa trasmissione in futuro. Sì, infatti, poi io ho il vizio di andare, soprattutto col caldo un po', cioè, a parte l'inverno pieno, io sono sempre a vetri aperti in macchina, quindi sai il rumore della turbolenza dell'aria, vabbè, gli apparecchi professionali è un conto, ma quello è un baracchinaccio. Sì, alcuni ho visto che anche Midland, aspetta, cos'era? Uno di quei baracchinetti nuovi, mi pare un doppio connettore per tipo cuffia microfono, che può essere anche da collegare al colletto della camicia, così, e quindi presumibilmente al Vox. Anche l'Intec faceva l'899 Vox, che era predisposto proprio per tipo cuffia microfono, roba del genere. Eia. Riprendi, Emanuele. Rimango in quadrizzi, dai, che sto facendo alcune cose qua, vi ascolto, dai, riprendi Marco. Eia, ok, dai. Nicola è arrivato a destinazione, interrogativo. No, negativo, sono stati a Rockefeller, quindi appena arrivo a Predaniedia mi fermo, vi chiamo. Sì, arrivi sempre bene, vabbè che sei vicino, insomma, sempre intorno al 9, sul 9, 9 qualcosa, 9,5, 8,5, quindi va benino con l'antenna, non benino, bene, non è lunghissima, ma lunghissima è anche una cosa un po' obbrobriosa da vedere, impegnativa. Riprendi Gianfranco, vado bene. Sì, Marco, dimmi che antenna è? Quella di Nicola dovrebbe essere la mini turbo della LEM con base magnetica, quindi un metro di antenna, nemmeno. Sì, è questo, è questo. Ecco, sì, mi rinfresco, un tubo, non c'ho internet. Aspetta, vabbè, mi collego sulla rete d'emergenza, dai, vediamo un po'. Scusate, ma Noele, io lo sentivo pochissimo. Verso dove si trova, capo? Non lo so, vediamo se te lo può dire lui, se... Emanuele? Sì, dimmi, capo. Nicola ti chiedeva, siccome ti sente forte, dove ti trovi? Anima Delta. E lui in che zona è? Lui sta andando adesso in via Rockefeller, quindi penso che si metta sulla 131 per andare verso Predaniedia. Esatto, sono sulla 131 direzione Predaniedia. Siamo vicini ad ora, per quella che mi ascolta. E anche perché Emanuele hai una modulazione fortissima, quindi anche avendo poco segnale tu in lontananza, ha voglia che ti sentono. Ok, anche avendo un'antenna del giardino, vuol dire che funziona bene, dai, meglio così. Sì, sì, di lusso, ce n'è d'abbondanza, voglia. Aspetta qua, messaggioni. Ecco qua, mi sono portato una bottiglia d'acqua. Per la prossima mezz'ora dovrebbe durarmi. Nicola, te la posso fare una domanda? Certo, tutte le domande che vuoi, cambio. È una domanda che mi sono sempre fatto. Mi spieghi perché quando eri in servizio eravate sempre in chiaro, in parole povere. Molti dicono, si giustificano dicendo che praticamente mettendo in, diciamo in rosso, dai, come diremo noi, eri troppo distorto, giusto? Beh, naturalmente si parla in chiaro per le cose che si possono dire, altrimenti ci sono i telefonini, capito? Sì, ma siccome sapevo che voi c'avevate le schede dentro il 400 e quelli lì, mi chiedevo il perché di questa scelta così strana, ecco, tutto lì. Ma guarda, onestamente non te lo so dire neanch'io, però le cose che si possono dire si potevano parlare, altrimenti con i cellulari cambio. Anche di lì i cellulari, oi oi. Tra l'altro ci avevate c'avete credo la stessa compagnia che abbiamo noi, perché noi quando utilizzavamo quelli di servizio, e quindi insomma, poi la prima dalla Wind, poi sono messi con gli arabi a quanto pare e sono passati alla Team di nuovo. Sì, che i cellulari nostri aziendali sono la Team. Sì, ma prima qualche anno, un paio d'anni fa erano Wind. Ma questo non te lo so dire perché io ci manco da 5-6 anni, quindi non lo so. Comunque, diciamo che credo che sia Team proprio adesso. Sì, sì, te lo confermo adesso il team. È così. Riprendi Marco. Ah, ma quindi loro avevano una modalità cripto come i cugini, diciamo, ma non la usavano? Così è? Sì, esatto, è così. Ripeto, a molti pare che dia fastidio, perché a differenza del digitale che non senti differenza, in analogico sembra che diventi barattolata o una cosa del genere la voce, capito? Sì, da fastidio sì il cripto, però che non possiamo più ascoltare niente, da fastidio sì. Hai sentito cosa ha detto Nico? Ho sentito sì. Comunque ripeto, uno via radio diceva cose che si potevano dire, altrimenti con i cellulari tanto. Infatti, e se non ho scherzavate tra uno e l'altro, oioi, è vero. Comunque, ecco, ci passiamo qua, che io non ho capito mio figlio perché si è preso il suo meccanico qui a Bertaneta, brutta. Non mi dire che fiori. Non lo so, guarda, appena vediamo te lo posso dire. Vabbè che sono tutti lì i meccanici. Riprendi, che era, mi dimentico, sto proprio rimbambendo, mi dimentico i nomi. Aiutami Marco che sei ragazzino. Mi ero un attimo distratto, ho sentito fiori. Fiori, chi ci va da Fiori? Forse Giulio ci andava da Fiori, è anche un amico al di fuori del baracchino. Era molto, fa anche le revisioni. Ma il padre non c'è più, no? È vivente ancora, vivi Fiori. Non posso dire perché sono da molto tempo che non ci vado. E quindi non so rispondere. So che adesso sempre quella macchina stupenda, la Balilla, chissà se c'è ancora. Guarda, io ci sarò stato una volta per una revisione, anni fa, ma tanti anni fa. E due o tre macchine fa c'ero stato da Fiori, poi non ci ho perso la. Io andavo da Viale Porto Torres, da quello Alfa Romeo, all'inizio di Viale Porto Torres, come si chiama? Porca miseria. Non mi viene il cognome, è inutile. No, ma tu, anche tu volevi ricordare un cognome di qualche meccanico, qualche officina? No, negativo, volevo passare a Emanuele, sì, a lui. Ah, dai, Gianfra, riprendete pure, rimango in quell'X, vi ascolto lo stesso comunque, che sto facendo alcune cose qua in camera e non riesco a rispondervi. Riprendete pure voi, dai, tranquillo. Vai, Marco. Ok, anche oggi è bella solata, porca miseria. Preferivo il freddo io il caldo purtroppo non è una cosa più forte di me, mi toglie il fiato, mi toglie tutto. A chi lo dici? Sì, poi è salita di colpo, adesso fuori non si può uscire, è caldissima, non capisce, bravo, tutta l'acqua che ha fatto adesso se va a far evaporare. Oh Gianfra, ma prima, quando ho detto della resina epossidica, ma tu ci avevi creduto? O hai capito che era una battuta? No, poi ti dico il perché. No, ci ho creduto perché proprio l'altra settimana mi hanno detto che questo qua ha aperto l'apparecchio, che aveva intenzione di ripararlo, e dentro c'era di tutto, capito? Ci sono anche quelle trasmissioni che fa un tecnico che ripara la radio CB e ha detto questa radio oramai è da buttare perché no, ci hanno messo la colla, quella là, la colla termica, poi in un'altra parte la colla di non so che cosa, insomma hanno fatto un macello che se dovevi praticamente cambiare tutti i trimmer, tutto un disastro, per quello che ci ho creduto, ecco. Io sono arrivato. Santiago Otto, Nico, è buono, dai, comunque, se sia per Danieda qua è buono, per qua. Perfetto, ma anche qua, non so, anche no, non conosco questa zona, ti dico la verità, invece mio figlio conosce tutto, vabbè, io sono qui fermo in attesa di mio figlio che si prende la macchina da me. Cappa Gianfra, adesso io ti dico questa cosa che ho sentito di uno che si è lamentato sui forum soliti. Io non so se sia una leggenda metropolitana, ma qualche autotrasportatore, no, camionista, ha dato un 48 per fare le modifiche solite magiche, no? Tripli modulatori, eco, colt, bla bla bla. Quando c'è stato un piccolo problemino all'apparato, poi l'ha aperto, lui non sapeva niente, e ha detto a sua avrebbe visto che l'avevano cementato dentro, cioè avevano fatto una piccola colatina in cemento per non far vedere quali modifiche erano state fatte e come. Non so se sia una balla, ma io credo che arrivino anche a questo. Beh, forse chi l'ha fatta la modifica era ammolato per non perdere l'abitudine, ci ha messo un po' di cemento dentro, così pesava anche di più tra l'altro. Poi io, ma guarda, dopo una certa età, Marco, imparerai a non meravigliarti più di niente, perché ce ne vorremmo di tutti i colori, sembra che a volte certe cose siano impossibili, invece sono possibilissime. Può darsi, che poi ormai questa modifica le conoscono un po' tutti, cioè non è uno che le fa, ormai 10.000 le fanno, non solo i laboratori, aspetta qua, segnale digitale, non solo i laboratori le fanno, ma anche i privati, no, che lo sanno fare, mettono doppio modulatore, l'eco colta, poi qualche modifichetta attacca e stacca, o con magneti o con telecomandini, eccetera, dai. Io sono al telefono, scusa un attimo Marco. Prego. Marco, dai. Per adesso mio figlio ha lasciato la macchina, adesso guida lui, quindi posso parlare con più serenità. Eia, segnale sempre intorno a 9 di strumento, quindi credo che sia un 8, perché questo è un pocherino, sì, è una canasta, un pochettino abbondante, dai. Comunque guarda, quell'antenna, la mini turbo della LEM, diciamo che mi sto trovando veramente bene. Sì. Naturalmente non tutti vogliono mettere antenne di 2 metri, perché è una cosa, cioè, già io mi lamento, aspetta che abbassa il volume, mi lamento di quella mia che è 1,5 metri, cioè è un antennone, caspita. D'altronde più è sviluppata lunghezza, più rende comunque sia, dai, meno caricata è, meglio è. Manuele, sei all'ascolto? Manuele, QTC. Claudio, ci sei qua? Stai ascoltando? Manuele, guarda che ti stanno chiamando in PMR. Se sei all'ascolto, in PMR ti stanno chiamando, K. Nuda, non c'è. E allora è indaffarato, dai. Adesso sono in movimento. Via. Comunque io vedo che non scende più di tanto il segnale, ma quindi tu stai usando il solito, l'Alan 42, più che buono. Tanto poi sai, poiché i portatilini più di tanto non spingono, no, come watt. Ma guarda, allora, collegata alla macchina, la macchina da 13,5 volti, microfono esterno e l'antenna sopra, in teoria dovrebbe uscire 4 watt. Eia, magari non 4 pieni, chi lo sa, può darsi pure, macchina un po' così. No, comunque con questa antenna faccio del QSO veramente interessante. Hai ricevuto? Sì, un attimino che stavo bevendo, ripeti Nico. Dico, con questa antenna mi ha grandi soddisfazioni. Sì, ma poi in città tanto quanto, quando sei in zone aperte anche sulla 131, ha voglia se prende, puoi andare anche al vero, in macchina, magari dopo le montagne, vabbè, un pochino qualcosina perde quando arrivi a quelle zona Montedoglia, no, se trovi una schermatura verso Sassari, se no già ne fai di strada. Deve essere bello in quelle zone americane dove hanno quelle zone mezze desertiche, miglia e miglia di strada piatta, libera, e lì il segnale viaggia, è anche 27, voglia. Eh beh sì, ma comunque ho sempre la paura. pure che l'antenna si possa staccare, cambio. No, quali hai? No, no, no, no. Allora, che base magnetica hai? Quella da 15, tutta nera, metallica? Ma guarda, io adesso è grande, non è piccolo, è grande. Sì, quelle, guarda, io vabbè, qua più di tanto non puoi correre. Allora, io la base da 12 centimetri, antenna a 1,5 metri. Vabbè, qua da noi è tutto divieti, io più di 110 non sono andato, ma alcun problema, nulla, nulla. Quella è da 15, è molto più bassa, più larga, l'antenna è più corta, e di solito sono garantite ai 150-160 km/h, o meglio non garantite. Per esempio la Sirius consiglia di andare oltre i 160 orari con antenne calamitate. Ma è un consiglio più che altro per la propria incolumità o quella degli altri, sai, non si sa mai che si crei un incidente. Vabbè, ma io naturalmente la sto usando solo per la città, quindi non è importante, diciamo. Anche fuori Sassari, un giorno che vai a Platamona, solo torre, ti fai un giro, basta che ci sia un po' di rotta e la provi. Cosa ti volevo dire? Sì, che da noi, a parte è tutto divieti, cioè da qui a Protore c'è tutto, quasi tutto 50, poi stanno mettendo autovelox in ogni dove, il laser velox, quello che ti becca un chilometro, quindi tu non vedi nemmeno il posto di controllo, che quello già ti ha letto la targa a un chilometro, e la velocità soprattutto, mamma mia. Ma sembra che li mettono anche in città, c'era un articolo su Sicily che mettono un povero sì, sì, sì, per esempio vigili urbani o polizia locale, vabbè, polizia locale, no, vigili urbani, già si capisce, all'altezza del vialetto, tu scendi quella dopo Santa Maria, scendi lì il vialone, cioè la discesa dove c'è il vialetto, a destra c'erano loro con l'autovelox, quindi se tu da quella piccola leggera curva arrivavi già veloce, ti beccavano all'istante, è una cosa incredibile, li mettono in via Milano, in via Budapest, lì a Lipunti anche, via Domenico Mille Lire, sì, quindi praticamente anche dentro la città li stanno mettendo, nelle vie diciamo a scorrimento più veloce tra virgolette, no? Che bisogna andare piano anche lì. Non neanche a farlo apposta, io sono qua dove c'è il vialetto, dall'altro lato c'era la pattuglia dei vigili con l'autovelo, cambio. Esatto, esatto, si stanno mettendo molto ma molto spesso. Come deterrente e anche per fare cassa, diciamolo, non è solo per la sicurezza, è per fare cassa, per portare soldi nelle casse comunali. Vai Gianfra. Sì, a proposito di casse comunali, stanno mandando già la TASI per i rifiuti. Ok, ok. E noi più che aspettare e pagarle, che possiamo fare? Ma ascolta Gianfra, ma voi siete in zona già di, come si dice, di differenziata, non differenziata, scusa, di porta a porta? Sì, sì, ci abbiamo il calendario, in quei giorni c'è la plastica, la carta, il secco, mentre per il coso, l'altro, come si chiama, non mi viene, no? Insomma la frutta, quella roba lì, non ce n'è bisogno perché abbiamo il compattatore, no il compostaggio, anzi no, il compattatore, un'altra cosa, che lo dà il comune stesso, butti tutto lì dentro e piano piano si decompone. Ah, ok. Sì, a me, per me sarebbe una cosa, mamma mia, in piena città, in porta a porta, sarebbe una rottura di scatole. Boh, vabbè, speriamo di no, però credo che vadano sempre più a chiudere, in modo anche lì da fare più multe possibile, no? Se fai male la differenziata. perché al cassonetto non è che puoi controllare tutto quello che buttano, a parte che qua vedo cose scandalose nei cassonetti, buttano deliberatamente materiale diverso da quello, tipo buttano legnaccio vecchio nel vetro, proprio buttato apposta per stronzaggine, permettetemi il termine. Ignoranza, molta ignoranza c'è in giro, però a molti li stanno pescando perché ci sono le telecamere in giro, sono molto piccole, le mettono e poi li fottono, oppure anche i cittadini che ti vedono fanno il filmattino, no, la foto, la targa eccetera, poi la dai al vigile, ci pensano loro. C'è gente che l'hanno rovinata anche qua, perché sono 5.000 euro di multa se viene considerato di materiale da discarica, quindi devono stare molto molto molto attenti, perché va anche sul penale. Quelli non lo sanno, vanno a buttare la roba anche di notte e fanno il filmattino e poi l'incappettano, le costa 500 volte più di andare in discarica. Ah sì sì, le cosiddette fototrappole anche usano, quelle che prendevano anche, manca la mitra nel pane, faccia una, un po' mimetica, no? Anche per riprendere tipo fauna che di giorno non vedi, no? Via. E ormai siamo in un grande fratello, ma grande averumi. Infatti, ma tu figurati che io ne ho una, c'è una telecamera che ti insegue praticamente, tu sali in alto e lei si posiziona in alto, tu sali in basso e lei ti guarda in basso, vai a destra e si sposta a destra. Una volta che ti ha preso nel mino non le scappi più, micidiale. Ma Nicola ha già finito o sei ancora impegnato? Sì, sì, ti riceviamo, mercato civico, cioè quello di inizio Piano Umberto. Io chiaro e forte, se preferisci alla vostra maniera 5/5, riprendi Marco. Sì, qua dopo tutto non è così forte, sempre intorno al 9 comunque. Quant'è che non vado al cinema? Deve essere bello quel cinema dentro adesso, no? L'ultimo film che ho visto era quella porcheria di DiCaprio. Come si chiamava quel film di DiCaprio, ma quella porcheria? Che l'ha fatto anche Coso. Ma scusa, quando me lo ricordo ve lo dico. Quello anni 30, dai. Titanic? No, Titanic no. Gatsby, il grande Gatsby. Non lo ricordo, forse era tipo il giocatore, il truffatore. Sì. Mi sono impallato, non mi ricordo più quello che dovevo dire, rincoglionito. Riprendi Nicola, dovresti essere più su del cinema oramai, quindi più su del cinema, quindi vado via le 30, dai. Fondo scala da me. Ce l'hai sotto. Anch'io ti sento. Beh, in macchina è così. Va bene Nico. Allora, a dopo, riprendi Max. Ok. Come scaldano questi apparecchi SMD però? Mi dà un fastidio. Almeno questo in particolare, pure sono sempre a 4 watt. Anche la zona del modulatore scalda molto. Cioè, scusa, dove c'è il transistor di modulazione? È presente sul lato sinistro. No, probabilmente più che di modulazione quello lì è l'amplificatore finale di bassa frequenza, no? Per l'audio. Comunque anche questo sta scaldando, di norma non dovrebbe scaldare, per niente, poi con 4 watt esatti c'è poco da scaldare. Il fatto è che c'è molto molto molto caldo, te l'ho detto che la temperatura è schizzata. Vabbè, in casa è passabile. Fuori è che c'è caldo. In casa si sta discretamente bene, anzi ti dirò. Sono in maglietta, pantaloni e jeans. Io faccio 26. Aspetta che guardo, c'è il termometro qua vicino. Vabbè, cosa siete facendo? Misurando le temperature. Misurerò Marco, sicuramente c'è la temperatura alta. Infatti adesso la facciamo pure il tampone. Ciao Claudio, ben entrato. Allora, 27 qua, perché qualcuna ha lasciato la porta finestra aperta e quindi il caldo è un po' entrato proprio da quell'angolo. Vai Claudio. Vai, sono andato a salutare, non gli voglio parlare. Sono mezzo drumito ancora, sono stato poco fa, il caldo fa riposare parecchio. E niente, sì, c'è vento caldo, giornata è ventilata, non so cazzo di vento sia, sembra maestrale con questa, con scirocco, con tutto mischiato, non si capisce niente, sto affatto che c'è un caldo fuori allucinante. Dentro casa, insomma, si vive, si sta benino, c'ho anch'io 26 gradi, però fuori penso ce ne siano molto di più, Va bene, avanti Giaffra, dai. Sì, è rientrato anche Nicola. Avanti Nico, sei posteggiato, sì. Zona alta, zona bassa, zona mare. Ah, ho capito. È stato anche Claudio, sto andando avanti. Sì, ma io lo sento basso di radio però. Il segnale può essere anche buono con la radio. Qua se non aumenti la voce o fai qualcosa ti sento basso. Perché devo aumentare il volume e poi quando parlano loro è troppo alto, devo riabbassare, capito? Sì, adesso meglio di radio, non è che ti puoi allontanare molto con quel portatile, non ti allontanare dalla bocca perché sennò la modulazione si abbassa troppo, capito? Beh, l'ha sentito Emanuele, poi Claudio, l'ho sentito e chiamavi, siccome Emanuele era qua, gli ho detto, Emanuele, era indaffarato, gli ho detto, Emanuele, QTC, ti stanno chiamando in PMR, sì. No, non mi ha risposto, evidentemente era, c'era il volume basso, ce l'ha spento, Non ha fatto, volevo fare due chiacchiere lì. Vabbè, ok, avanti Giaffra, riprendi, dai. Ok, Dio, una cosa, mannaggia. Peccato che non ne ho più PMR, a meno che non ce ne sia qualcuno buttato da qualche parte, ho fatto tutti fuori. Sono gli avrei dato a Nicola. Nicola, ce l'hai il PMR? Negativo, non ce l'ho. Peccato. Sarebbe stato utile, diciamo, dai. Vabbè che oramai costano 25 euro, 30 euro, una cosa del genere. Ma i Bao Bao, non i PMR veri? No, anche i PMR veri, ho da 100. Quelli da 13, l'importante è che non so se io c'avevo quelli della Brondi, quelli vecchi, tutti plasticati, no? Capo, l'ho dato quello prima, lo sentivo anche sulla strada Alghero. Ah sì, per ricevere non ci sono problemi. Sai cos'è? Che i PMR omologati sono in FM stretta e quindi molti di quelli che ascolti sono strappati perché lì si sta in FM larga, cioè capito? Sono in FM larga tutti. E quindi anche ascoltando con quello vero, Brondi strappa. Guarda, io ti dico che ieri stavo ascoltando in proprio lì dove gente che parlava sul 7, adesso sì sul 7, che sia, non so, sul 7 era sì, praticamente erano inutilizzabili il 6, il 7 perché era occupato e anche l'8, cioè parlavano un paio di stazioni, boh, praticamente occupavano tre canali, perché questa gente non si prende la briga di guardare né la larghezza di banda, né neanche la spaziatura che c'hanno da un canale all'altro, che è molto molto molto stretta, perché va bene per 500 milliwatt, ma se inizi a portarla a 2-3 watt, caro mio, per di più facendo proprio l'amplificazione con la radio in FM è poi uno scandalo, c'è un casino, guarda. Mi ricordo quella volta, Claudio, te lo ricordi, da Porto Torres. Io mi ricordo, siamo andati in Evaia, e vabbè, mi già sei sempre attenti comunque. Le regole sul PMR sono sempre quelle, non sono cambiate, quindi io dico sempre, ognuno che la sua può fare quello che vuole, ma almeno stai zitto, non dare il bando. E ci molti stanno lì, c'ho questo, c'ho quello, c'ho quell'altro. Vabbè, io non me ne affuttiruta, io uso 820H, quello ho e quello uso. Non è che ci abbia molti giochi da fare. Va bene, ok, dai, io rimango in ascolto. Io ho quelli che vanno tutto, sono lo stesso PMR, uno PMR, l'altro è... no, anzi sì, due sono PMR, l'altro no, però sono cose un po' più serie quelle, non sono della cosa, del Baufeng, uno è Vauxhall, nell'altro... gli altri sono altre marche, ma fanno tutt'altra cosa. Va bene, dai, rimango in ascolto, non io voglio parlare, perdonatemi, ma sono un po' così, un po' trullo, se mi sveglio meglio rientro, dai. Nicola, te il mic, ci sentiamo dopo. Vi ascolto ma non riprendo, vai, dico. Beh, Marco non fa testo perché si è attaccato a lui, quasi Santiago 9, quindi va bene. Sì, ti capisco perché non c'è QRM, però dovresti essere in